Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo venerdì 11 ottobre. Noi naturalmente parleremo dell'aggressione turca in territorio siriano curdo, ma naturalmente apriamo come sempre con la pagina internazionale ancora tramite Radio Bullet. Un buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, venerdì 11 ottobre 2019, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato, come di consueto, il mercoledì e il venerdì, alle notizie che arrivano dall'Africa e dall'Europa. Noi cominciamo con l'Africa, cominciamo con il Burkina Faso, dove, secondo testimonianze raccolte da Radio France Internationale, la popolazione del villaggio di Tongomayel è stata costretta ad abbandonare le proprie case dopo le minacce di un gruppo armato che aveva dato un lasso di tempo di 72 ore per farlo, pena la morte. I circa 2.000 abitanti del luogo, riferisce l'agenzia di stampa, si sono trovati costretti ad ubbidire in assenza dell'intervento delle forze di sicurezza. La notizia conferma il grado di insicurezza e instabilità che sta attraversando il Burkina Faso. In Ruanda è arrivato ieri il secondo gruppo di richiedenti asilo provenienti dalla Libia e accolti in base all'accordo firmato 2 settimane fa tra il governo di Kigali, l'Unione Africana e le Nazioni Unite. Secondo Elise Ville-Chaland, portavoce dell'Alto Commissariato in Ruanda, si tratta di una soluzione provvisoria. C'est un centre de transit, ça veut dire qu'ils ne sont pas amenés à rester indéfiniment dans ce centre. L'objectif pour nous est de leur donner un endroit sécurisé où ils peuvent. In seguito, dice Ville-Chaland, i rifugiati potranno essere rimpatriati nel paese di origine se lo desiderano o indirizzati a paesi terzi. Con i 66 arrivati all'inizio della settimana, sale a 200 il numero dei rifugiati finora accolti sui 3.000 previsti. Sudan, è Nemat Abdullah Keir, ex giudice della Corte Suprema, la persona chiamata a prendere la testa del potere giudiziario in Sudan. È la prima donna a ricoprire questo posto. L'annuncio è stato fatto ieri dall'agenzia di stampa ufficiale Suna. Nemat Abdullah Keir è stata nominata a questo posto per decisione degli 11 membri del Consiglio Sovrano, che hanno anche nominato Tai al-Sir Ali come procuratore generale. Sempre nella giornata di ieri è stata decisa la proroga di 3 mesi dello stato di emergenza. Con la liberazione del miliardario candidato al ballottaggio delle presidenziali Nabil Karoui, può finalmente riprendere la campagna elettorale in Tunisia, dove domenica si voterà per il nuovo presidente. Subito Karoui ha accusato il suo rivale, il giurista Kaid Sayed, di essere una marionetta di Ennahda, il partito islamista che ha vinto le recentissime elezioni legislative. Stasera la campagna elettorale vedrà per la prima volta un confronto televisivo tra i due candidati e prima ancora nel pomeriggio è previsto per entrambi un comizio in 2 distinti luoghi della capitale tunisi. L'Uganda sembra intenzionata a riproporre la contestata legge che punisce l'omosessualità con la pena di morte. La legge era stata annullata per motivi tecnici 5 anni fa dopo le proteste della comunità internazionale, ma secondo un'intervista rilasciata alla Reuters dal ministro dell'Etica e dell'Integrità Simon Lokodo, il governo si appresta a ripristinare la legge per punire non solo l'omosessualità, ma anche chi la promuove. Lokodo ha affermato che il disegno di legge che è sostenuto dal presidente Yoweri Museveni verrà reintrodotto in Parlamento nelle prossime settimane e dovrebbe essere votato entro la fine dell'anno. Europa, Francia, si è tenuta ieri davanti alla Corte d'Assise Speciale la requisitoria della Procura contro 4 donne accusate di aver progettato nel settembre 2016 un attentato nel centro di Parigi. Il procuratore ha chiesto pene dai 20 ai 30 anni di carcere per quelle che ha definito jihadiste animate dalla volontà di uccidere. Due delle imputate, nella notte tra il 3 e il 4 dicembre 2016, avevano tentato di appiccare il fuoco alla loro macchina riempita di bombole di gas e parcheggiata davanti a un ristorante nei pressi di Notre Dame. Erano state arrestate 5 giorni dopo assieme a altre 2 donne. Nella fase dell'arresto, una di loro aveva ferito un poliziotto con un coltello. La polizia aveva poi dichiarato di aver trovato dei video in cui le 4 donne giuravano fedeltà allo Stato islamico e rivendicavano già da allora l'attentato che poi invece sarebbe fallito. Per quello che riguarda il processo, oggi tocca alla difesa, mentre la sentenza è attesa per lunedì o martedì. Danimarca, si conclude oggi a Copenaghen la conferenza delle città aderenti alla rete C40, alla quale partecipa anche la città di Milano. You're an extraordinary partner and friend. Vous êtes un partenaire extraordinaire et un vrai ami. Gracias por su liderazgo también. E con queste parole il sindaco di Los Angeles ha ringraziato Anne Hidalgo, della quale ha preso il posto come presidente dell'organizzazione. Nel suo discorso Eric Garcey ha annunciato un Global Green New Deal. A C40, my agenda is clear. It is time for us to collectively enact a Global Green New Deal. And to make this Global Green New Deal the work of the next decade. Tuttavia il sindaco di Los Angeles non ha ancora delineato un piano di azione concreto, tranne assicurare che rispetteranno gli impegni degli accordi di Parigi sul clima, a dispetto di quello che vorranno o potranno fare i governi nazionali. Sul nostro sito troverete il link al sito della conferenza, dove potete trovare anche le buone pratiche messe in campo dai sindaci intervenuti. I 28 Stati membri dell'Unione Europea hanno tolto ieri la Svizzera, insieme a altri 4 Stati, dai paesi nella lista grigia dei paradisi fiscali, in virtù degli sforzi compiuti in materia di cooperazione fiscale. Secondo la ONG Oxfam, la decisione è tutt'altro che positiva. Certo, dice la ONG in un comunicato, la Svizzera ha abolito i regimi fiscali preferenziali, ma continuerà ad attirare le imprese che cercano di pagare meno imposte del dovuto. Quanto alla lista nera, da ieri a 2 membri in meno, Emirati Arabi Uniti e Isole Marshall, che secondo l'Unione Europea non rientrano più negli stati non cooperativi. Gran Bretagna continua la mobilitazione degli ecologisti che ieri hanno occupato l'aeroporto di London City, il più vicino alla città, dove vogliono rimanere fino a domenica. L'occupazione, dicono le autorità aeroportuali, non avrà ripercussioni sui voli. La polizia comunque ha proceduto a diversi arresti. Alla data di mercoledì sera erano già 800 le persone arrestate. La Commissione europea ha deciso di rivolgersi entro il termine di 30 giorni alla Corte di giustizia in una procedura contro l'Ungheria per non aver rispettato le indicazioni sul trattamento dei rifugiati. A luglio la Commissione aveva inviato una lettera di costituzione in mora al governo di Budapest, ma l'Ungheria non ha fatto i passi necessari a garantire un trattamento umano e rispettoso delle convenzioni internazionali ai rifugiati detenuti nelle zone di transito con la Serbia, lasciati senza cibo. Ora il governo ha 1 mese di tempo per mettersi in regola prima di essere ufficialmente deferito alla Corte. Intanto la Commissione europea ha già deferito la Polonia alla Corte di giustizia europea contro le riforme giudiziarie del governo conservatore, chiedendo un giudizio accelerato. La causa, ha spiegato ieri la Commissione, è contro le nuove regole che prevedono azioni disciplinari contro i giudici, minandone quindi l'indipendenza. In Polonia si vota questa domenica e il partito al potere è accreditato di un nuovo successo. In Ungheria, pochi giorni dalle elezioni locali del 13 ottobre, lo scandalo politico più rilevante sembra essere quello che coinvolge il sindaco di Győr e membro di Fidesz, Zsolt Boráj, ex campione olimpico. Non si tratta, come molti avrebbero preferito, di rivelazioni in merito alle accuse di corruzione che lo riguardano, ma di foto e video relative a una vacanza su uno yacht in compagnia di numerose donne, numerosissimi alcolici e, dicono i media, imprecisate quantità di cocaina. Tuttavia, considerati i valori della famiglia che il partito al potere Fidesz dice di voler rappresentare, la diffusione di foto e video potrebbe dare dei vantaggi all'opposizione, anche se, a giudicare dai sondaggi, per ora l'effetto boomerang è il più probabile. La persona che ha pubblicato i video, un anonimo blogger che li ha caricati su Pornhub, dice di avere materiale ancora più compromettente. Viorica Dăncilă non è più premier della Romania. Ieri il Parlamento l'ha sfiduciata e ora rimarrà in carica solo per sbrigare gli affari correnti, in attesa della nomina da parte del presidente di un nuovo premier e di un nuovo esecutivo. La sfiducia di ieri rappresenta una nuova tappa nello scontro tra la premier e il presidente della Repubblica Klaus Iohannis, che non l'ha mai gradita. Ma anche Iohannis si appresta a lasciare il posto. Il 10 novembre si svolgeranno infatti le elezioni presidenziali. La Danimarca ha deciso ieri di implementare nuovamente i controlli alla frontiera con la Svezia dopo numerosissimi episodi di criminalità relativi alla guerra tra bande. Le nuove norme, ha detto ieri il ministro della giustizia, entreranno in vigore dal prossimo 12 novembre e prevederanno un rinforzo della videosorveglianza, l'identificazione automatica delle targhe e l'aumento del tempo di conservazione di questi dati e poi ancora controlli più serrati e monitoraggio dei membri delle bande di motociclisti e altre bande. Vengono aumentate le pene per il possesso di esplosivi e per il danneggiamento di edifici pubblici. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Io vi saluto, vi lascio con il resto dei programmi di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna, con il resto delle nostre rubriche per chi ci ascolta invece online. Appuntamento a domani sabato con il notiziario orientale a cura di Serena Console. Una buona giornata e un buon fine settimana.

La petroliera è della Compagnia Petrolifera Nazionale Iraniana. Fonti anonime hanno riferito all'agenzia statale ISNA che si tratta di un attacco terroristico, questo è come è stata battuta l'agenzia. La nave, che secondo la compagnia potrebbe essere stata colpita da un missile, avrebbe subito danni gravi e starebbe rilasciando petrolio nel Mar Rosso, che più rosso ormai è un Mar Nero, ma parleremo anche di ambiente più avanti. Una densa colonna di fumo si leva al largo della costa saudita. Naturalmente le preoccupazioni di questa escalation bellico si sommano una sull'altra e ci porta direttamente a chi approfitta di questo broda di guerra e di sangue per così rimpolpare il suo carniere di vittime di potere. Parliamo di Erdogan, il sultano turco, che appunto senza arte né parte ha deciso che è lecito invadere la Siria e il territorio curdo, perché con le armi si può, alla faccia del diritto internazionale. È il grande insegnamento di questi ultimi decenni. Le armi del ricatto, questo è il manifesto tra i vari titoli che troviamo questa mattina. Erdogan bombarda nel mucchio il nord della Siria e minaccia Bruxelles. Se mi ostacola spedisco 3,6 milioni di profughi in Europa. E sono migliaia di civili curdi in fuga. Ignorato, dico io ovviamente, l'appello dell'ONU, dal Rojava, dove sono le truppe del curde, dicono resisteremo, ma sappiamo che la partita Kobane, essendo inesistente tra i curdi con artiglieria antiaerea, è ben difficile resistere ai bombardamenti dal cielo. Quindi è così Siria, dice mestamente all'interno in un gioco di parole il manifesto, ve la do io l'invasione. Erdogan spara sui civili e minaccia l'Europa. La pagina di giornale, hai molti chiaramente riportano questo come primo titolo, per esempio l'Avvenire, giornale cattolico, le bombe del sultano, così vengono chiamate né più né meno, altro che bombe intelligenti, perché abbiamo la pagina del Corriere, che dopo aver aperto con le minacce di Erdogan, continua poi con questo fatto di cui già si parlava nella vendita delle armi, ovvero sia che noi siamo alleati della Turchia, è un fido alleato della NATO, quindi siamo noi complici di quello che sta accadendo, fino a prova contraria. L'imbarazzo della NATO con la Turchia, vanno evitate le vittime civili. Ora l'estrema ipocrisia di chi ancora pensa che esistano bombe intelligenti, mentre quelli sparano nel mucchio, e qui ma anche il fatto, come dire, il ringraziamento tra virgolette dalla NATO alle truppe curde che hanno sconfitto l'ISIS sulla terra. Adesso massacratele pure, basta che non uccidete i civili. Questo è il mattatoio delle alleanze. Stoltenberg, l'eterno segretario nordamericano, perché loro sono loro i padroni evidentemente della NATO, altro che alleati, segretario dell'alleanza nazionale di cui fa parte Ankara, contenetevi, oggi vedrà Erdogan. Questo è quanto. Poi naturalmente ci sono le sciocchezze che cercano di bypassarle. Il giornale, più che interessato alla vicenda delle popolazioni che scappano, quelle massacrate, è preoccupato, nuova minaccia di Gian Michele Sin, la Turchia ci bombarda con milioni di immigrati. E questo è naturalmente, questa cosa è una minaccia concreta che incombe in particolare sulla Grecia, che sappiamo dire in pettaia della Turchia. E allora il precario risico siriano, secondo il Fatto Quotidiano, dalla NATO agli Emirati, alleati rivali di Ankara, mentre Nisrin Abdullah, la comandante dell'IPG, le truppe curde, quelle che hanno dei peccati originali che non sono perdonabili, come essere democratiche, essere multietniche, multireligiose, dare diritti uguali alle donne che agli uomini, sono cose insomma che in quell'area sono imperdonabili, ma anche in giro per il mondo, compresa l'Italia, poi lo vedremo, non sono ben accettate, è davvero un'eresia. Allora Nisrin Abdullah dice: bombardano le dighe per farci scappare. Anche qua potremmo incrociare, ma sarebbe fin troppo facile, il tema ambientale con il tema della guerra e della fuga delle persone. Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti. I giornali di oggi sono tutti pieni in prima pagina di fotonotizie che riguardano questo fatto della guerra tra la Turchia e i curdi. Il Resto del Carlino ha una fotonotizia che ci parla del ricatto di Erdogan, all'attacco ai curdi la Turchia minaccia: se ci ostacolate vi mandiamo in Europa 3 milioni e 600 mila profughi. profughi che al momento sono fermi in Turchia e sono siriani. E altre notizie sulla stampa: sotto i raid turchi l'ISIS festeggia, potremmo fuggire dalle prigioni turche, la colonna di fumo che si alza ai minareti di Akkale, città al confine tra Siria e Turchia. E c'è anche, adesso l'approfondiremo, un'intervista a Massimo D'Alema da parte di Francesco Bei. D'Alema ci dice: in Siria è in gioco l'autorevolezza delle grandi democrazie del mondo occidentale, purtroppo non si può contare sugli americani. A dirlo in un'intervista appunto è Massimo D'Alema alla stampa. D'Alema potrebbe stare zitto, ma proprio zitto, visto che si parla di tradimento. Fu lui che consegnò Öcalan ai turchi quando era in missione di pace in Europa, ecco, per dire, un po' di memoria non guasta. Esatto. E prendiamo sempre la prima pagina di Repubblica, e anche qui si parla di minaccia all'Europa da parte di Erdogan, ed è un ricatto disumano. Il presidente turco pronto a rimandarvi 3 milioni e 600 mila profughi siriani, e non parlate di invasione, già 60 mila curdi in fuga al confine. Le testimonianze dal fronte ci vengono da Marco Ansaldo da Akkale, al confine tra Siria e Turchia. Marco Ansaldo ci fa un po' il punto della situazione. Registra appunto profughi che si stanno allontanando dal fronte. E c'è un editoriale di Federico Rampini che parla di Washington, da Washington, fa il punto sulla lucida follia di Donald Trump, e dice: i curdi mica ci hanno aiutato nella seconda guerra mondiale. Questa è la battuta uscita dall'ultimo video su Twitter di Donald Trump, che si fonde con le immagini tragiche del fronte ed fa decisamente rabbrividire questa cosa. Comunque le segnalo anche un corsivo di Andrea Bonanni che ci parla appunto del ricatto di Erdogan all'Europa, e inizia con questa: incipit, l'invasione turca del Kurdistan siriano, il tentativo di sostituzione etnica per insediare i rifugiati siriani al posto delle locali popolazioni curde non è cominciata ora che si muovono i tank e sparano i cannoni di Erdogan. L'operazione ha avuto il suo inizio politico 10 giorni fa a 1200 chilometri a ovest di Rojava, la città su cui ora puntano le forze turche. Il 29 settembre il campo profughi di Moria sull'isola greca di Lesbos, una madre e il suo bambino bruciarono vivi in un incendio scoppiato accidentalmente ma reso incontrollabile dalle drammatiche condizioni di sovraffollamento. Seguirono sommosse e incidenti. Il campo, costruito per 3.000 persone, ne ospitava oltre 10.000. Pochi giorni prima, Medici Senza Frontiere avevano parlato di una catastrofe umanitaria per i profughi ammassati sulle isole greche. Non solo mese di agosto, Frontex, l'agenzia per l'Unione Europea per il controllo delle frontiere, ha denunciato l'arrivo in Turchia di 9.000 rifugiati siriani, il doppio dell'anno precedente. Andrea Bonanni ci dice che Erdogan è consapevole dei rischi che corre e per questo si è preoccupato, mesi e settimane prima dell'attacco contro i turchi, di chiarire bene quale sarebbe il prezzo che gli europei dovrebbero pagare in caso di scontro frontale con il suo regime, e cioè un prezzo altissimo. Se la Turchia aprisse infatti le proprie frontiere, magari incoraggiasse l'esodo dei rifugiati siriani verso l'Europa, la UE rischierebbe davvero il collasso. Nel settembre 2015 centinaia di siriani diretti in Germania hanno travolto la Grecia e messo le spalle al muro di Angela Merkel, hanno alimentato il populismo, il sovranismo di estrema destra in tutta Europa, hanno approfondito le divisioni con i paesi dei migranti del gruppo di Visegrad, fino a quando nel 2016 Merkel ha dovuto ritrattare la questione con Erdogan e chiedere il blocco delle frontiere. L'Europa non si può sbagliare, se adesso rimanesse inerte rinnegherebbe i valori su cui si è fondata, conclude Andrea Bonanni. Nessun errore potrebbe essere più grave di questo. E allora, più che l'Europa dei vertici, che rimarrà sicuramente inerte a parte qualche dichiarazione, salvo poi continuare a vendere le armi alla Turchia, vediamo la ONU dei popoli, così diceva Don Torino Bello al tempo. No war dappertutto, oggi in piazza Roma, il 12-19 ottobre, date internazionali. Oggi a Roma, ma c'è anche altre città italiane, ma c'è anche Parigi, Zurigo, Atene, Copenaghen, Berlino, insomma, e altre diverse metropoli globali, alla fianco del popolo aggredito, dei popoli, perché non sono solo i curdi, sono anche gli yazidi, gli assiri, eccetera. La voce da Rojava, vogliono cancellare il nostro modello democratico, continuo a leggere dal manifesto. Gli USA non sono mai stati ritenuti alleati inaffidabili perché i curdi conoscono i Stati d'America, non è che sono nati ieri, ma solo un sostegno militare, cioè questo era quello di cui si trattava. Ma c'è un incontro, è successo alla Camera, che ce ne parla Sarina Chiodo sempre dal manifesto, tra rappresentante della NATO e la delegazione del Kurdistan siriano, e hanno chiesto papale, siete con noi o siete con l'ISIS? O ancora, è normale che un membro della NATO attacchi dei civili senza essere stato aggredito e che lo faccia insieme ai jihadisti? Il rappresentante della NATO si guardava imbarazzato nel punto delle scarpe, diceva, ma veramente io non so, questo è il quadro. Ma si diceva che si alimenta allora l'estremismo della destra, il segno della guerra, dello scontro tra culture, civiltà, etnie o fatal destini, dice qualcuno, e ci spostiamo inevitabilmente adesso alla pagina tedesca che vive ancora l'incubo di questo attentato nazista sull'onda di Breivik o di quell'altro della Nuova Zelanda, Hall. Aveva 4 kg di esplosivo, il padre dice un perdente, dava la colpa agli altri. Ora qui si va naturalmente anche agli aspetti psicologici, che sicuramente ci sono, una frustrazione individuale, ma quando tanti frustrati, tanto quanto pazzi, si mettono insieme, diventa un qualcosa di diverso, e qualcuno chiaramente non può che averli manovrati. Nel paese del killer di Ale, lavoretti e odio per gli stranieri. E ancora una volta la questione sociale, la miseria si mischia con l'insofferenza e la paura. Le cose sono cambiate per gli ebrei, la Germania è di nuovo pericolosa, lo scrittore Goethe, ci sono due antisemitismi, quello della jihad e quello dei suprematisti, questo è quello che dice questo scrittore, ed è vero, se è vero come è vero, che ci sono 4.000 militanti neonati nella Germania dell'Est pronti a ripetere gesti come questi. Gli spari, la paura e il silenzio erano pronti a batterci, racconto gli scampati, siamo stati calmi, sembrava un film muto, quindi un silenzio agghiacciante è quello che si respirava in questa sinagoga assediata. Sì, sulla stampa a pagina 15 a Dalle c'è rabbia e incredulità, l'odio razziale qui è incontrollato, dichiara appunto il sindaco di questa cittadina, Berne Wiengand. Nella macchina del killer sono stati trovati 4 kg di esplosivo e di armi. Lui era solo isolato, non parlava con nessuno e pianificava la strage. Questa era la stampa. E invece su Repubblica c'è una spalla di Gad Lerner. A casa del nazista sono andati i poliziotti e lui era solo e violento. La rabbia davanti alla sinagoga, la polizia non conosceva nemmeno l'indirizzo. E Gad Lerner dice, si chiede qual è il bersaglio, appunto, voleva colpire l'ebreo o l'arabo, il killer suprematista Stéphane Ballier. E dopo alcune ore di incertezza lui stesso ce lo ha chiarito, voleva una strage in sinagoga, imbrattare di sangue il digiuno di Kippur. Deluso ha deciso di rifarsi sparando addosso al Nakaken, e l'articolo prosegue appunto dicendo che l'ebreo e l'arabo, oggi descritti come nemici irriducibili, si ritrovano malvolentieri accomunati nel cuore dell'Europa contemporanea, dentro la categoria degli inospitabili, proprio così, inospitabili, corpi estranei, inusitati nel corpo sano della nostra società, nocivi da espellere o da sterminare a casaccio in quanto antibianchi, e per usare il linguaggio di Ballier, meglio se ebrei, un po' come Luca Traini andava a caccia traccia di persone dalla pelle scura per le strade di Macerata. Anche se è sgradevole, bisognerà pur riconoscerlo, nella cloaca in cui germinano le argomentazioni suprematiste rivendicate da questi assassini, ci sguazzano pure importanti capi di Stato, leader politici, predicatori televisivi, e vi hanno attinto gli slogan vincenti della loro propaganda. Questo ci segnala appunto Gad Lerner. I giornali della destra, conclude questo articolo di fondo, ieri minimizzavano l'attentato alla sinagoga di Halle, fin quasi a farlo scomparire dalle loro prime pagine. Nel loro cliché, l'antisemitismo è ormai solo una piaga di sinistra, alimentata dall'antisionismo e dal terzo mondismo. Disturbano le analogie di linguaggio e di contenuto così vistose fra la propaganda di partiti di destra e i bollettini di questi criminali. Invece i giornali di destra dovrebbero essere i primi a lanciare l'allarme. Non illudiamoci che l'Italia resti per chissà quale virtuosa circostanza immune dalla violenza di matrice suprematista. Il sequestro del luglio scorso ad opera della Procura di Torino di un vero e proprio arsenale di armi di guerra, compreso un missile custodito da militanti vicini a Forza Nuova e distribuito in diverse regioni italiane, suggerisce molta prudenza. Finora hanno avuto convenienza non esibirle, ma la facilità con cui queste armi si procurano non promette proprio nulla di buono. E allora mi sposto nella pagina, altra pagina internazionale, gli altri esteri, in quell'America Latina che è assolutamente in crisi per l'elemento della crisi politica, economica e sociale. E anche qua ci sono ritorni potenziali e pericolosi, lo vedremo, anche di personaggi come Bolsonaro legati al neonazismo. Allora, del neonazismo, pensando alla Germania, ma pensando non solo a quella, andiamo ad ascoltare sulla partita vicenda di Halle, cui si leggeva il commento della giornalista Paola Mirenda, che si trova a Lipsia, intervistata da Sara Spimpolo. Sentiamo le sue parole. Le dimensioni non sono affatto piccole. L'ultimo rapporto dell'Ufficio per la protezione della Costituzione, che sono sostanzialmente i servizi segreti interni, parla per il 2018 di 24.100 persone aderenti in qualche modo, sia strutturalmente, quindi in movimenti, sia singolarmente, alla scena neonazista, e di oltre 12.000 attacchi riconducibili all'estrema destra nello stesso periodo. Dunque un fenomeno di dimensioni abbastanza ampie, che poi ovviamente variano da regione a regione. I land, diciamo, dell'est sono sicuramente più permeati di questo fenomeno dell'estrema destra, e la Sassonia-Anhalt fa parte appunto di questi land. Ecco, ma che tipo di leggi ci sono contro il neonazismo in Germania, e se vengono rispettate? Le leggi ci sono anche molto, molto forti. C'è appunto l'Ufficio per la protezione della Costituzione, che si dovrebbe occupare proprio di questo. Il problema qui è un altro, non è tanto la legge quanto l'infiltrazione dell'estrema destra nelle forze dell'ordine, nella polizia, e quanto lo stesso Ufficio della protezione della Costituzione sia in realtà molto poco attento a quello che succede nell'ambito dell'estrema destra. Di recente ci sono stati degli episodi abbastanza significativi. Uno di questi è la scoperta di questa rete che faceva parte dell'esercito tedesco, di membri dell'esercito, composta da membri dell'esercito tedesco, pronta ad agire a una fantomatica ora X con armi e con tutto, rete tutta legata all'estrema destra, di cui faceva parte anche il famoso ufficiale che si era costruito un'identità fittizia, l'identità di un rifugiato siriano, per poter fare un attentato sotto le spoglie del rifugiato siriano e dare quindi la colpa ai profughi. Ci sono altri episodi che raccontano come ci sia molto nelle forze dell'ordine dell'estrema destra. Di recente è uscito di nuovo fuori il caso di una guardia del carcere di Lipsia, e siamo quindi vicini a Halle, che era stata fermata, arrestata nel corso del raid neonazista proprio a Lipsia. Nonostante questo, è rimasto al suo posto, e si è scoperto che esiste comunque una rete di sostegno e di aiuto agli estremisti di destra che sono rinchiusi in carcere. Su questa questione proprio apposita, adesso il servizio segreto militare ha promesso una riforma e ha promesso quindi di monitorare un pochino più ampiamente quello che sta succedendo. È un problema che c'è, che quando era ministra della difesa Ursula von der Leyen ha tentato in qualche modo di affrontare senza poi farlo, e che ora lo dovrebbe fare la nuova ministra della difesa, ma che fino adesso non si è visto assolutamente come lo vuole affrontare. Ecco, infatti volevo chiederti proprio qual è la posizione del governo nazionale verso questa piaga del neonazismo, anche a livello della cancelliera tedesca Angela Merkel. Angela Merkel è sicuramente una delle persone più attente al fenomeno neonazista. Bisogna dire che lei singolarmente come persona, ma anche come leader della CDU, ha cercato di essere molto ferma su questo, soprattutto per quello che riguarda gli atti di antisemitismo, ma anche per quello che riguarda gli atti contro gli immigrati. Lei è uno degli obiettivi degli estremisti di destra, perché ha aperto i confini, perché è responsabile della sostituzione etnica, è tutto quello che appunto diceva anche il tipo che ieri ha ammazzato due persone e che è il leitmotiv poi dell'estrema destra attuale, la sostituzione etnica in Germania colpa di Angela Merkel. Quindi lei sente moltissimo questo problema ed è una persona molto molto rigorosa in questo. Meno rigorosi sono altri esponenti della CDU che strizzano l'occhio magari anche politici di Alternative for Deutschland, che ha delle grosse responsabilità nell'aver banalizzato quelle che sono le violenze dell'estrema destra e averle in qualche modo messe al centro della scena politica tra virgolette regolare, tolte quindi da quella parte di cui diciamo si voleva non parlare, si voleva forse in qualche modo anche far finta che non esistesse. Alternative for Deutschland l'ha riproposta al centro della scena, sono diventato un discorso comune e questo è il pericolo adesso della destra in Germania, che è diventata parlamentare. Tutto ciò secondo te come si connette all'altro fenomeno del revisionismo? La Germania, devo dire, questo anche rispetto all'Italia, ha una fortissima remora a mettere in discussione quello che è stato tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale e l'Olocausto. Certo, c'è nel famoso web nascosto, tutto questo c'è, nella scena estremismo di destra c'è, ma nel discorso pubblico questo è difficile che venga riportato fuori e lo stesso Alternative for Deutschland non lo fa. Questa è una cosa che viene tenuta sempre molto, molto attenta, è una di quelle cose in cui c'è proprio una reazione immediata da parte di un tedesco se viene toccato questo argomento. Tieni conto che qui c'è un movimento abbastanza curioso, se visto poi dall'Italia, che è quello degli antitedeschi o i veri tedeschi, che sono un gruppo, diciamo, di sinistra pro-Israele, che difende qualsiasi governo abbia a che vedere con Israele, che ha come idolo Bush perché ha protetto Israele, e lo fa da un punto di vista della sinistra, spaccando tra le altre cose su questo anche la sinistra, proprio perché non deve assolutamente essere toccato niente di quello che può riguardare gli ebrei. Quindi da questo punto di vista direi che forse la Germania politicamente adulta è esente da questo fenomeno. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. E anticipavamo appunto, parlando delle grandi repressioni, la vicenda latinoamericana che adesso ha il suo focus in Ecuador. È la pagina 9 del manifesto con l'intervento di Claudia Fanti che ci racconta Ecuador, le comunità indigene, nessun dialogo con Moreno. La repressione contro la rivolta prosegue, i morti sono almeno 7. La CONAIE, questa organizzazione delle comunità indigene, questo è un governo repressivo e criminale. Quindi questa coordinadora ecuadoriana del controinformazione, così è esattamente l'acronimo, ci sono almeno 95 ferite gravi, più di 500 feriti lievi, 85 sono le persone scomparse, più di 800 quelle arrestate. E dicono, aggiungono, non c'è memoria nella storia recente del paese di una repressione tanto atroce e violenta contro un popolo che rivendica i suoi diritti. Il presidente della CONAIE, Jaime Vargas. Questo è il paradosso tragico di un paese che si era dato con Moreno proprio una costituzione indigena, e vedere questo presidente indigeno avere la repressione più feroce della storia del paese. Andiamo invece a Bruxelles con questo euro schiaffone a Macron, stop alla fedelissima Goulard, la candidata commissaria bocciata dal Parlamento, paga le inchieste su di lei, ma anche l'isolamento del presidente, in particolare dallo schieramento dello Stato di Visegrad. Solo 29 i sì contro 82 no, quindi proprio è stata spazzata via nella sua possibilità di essere eletta. Decisione frutto solo di giochi politici, dicono da Parigi, che naturalmente non l'hanno presa bene. E sulla Brexit, che mentre si avvicina il 31 ottobre, cioè il giorno del no deal Brexit, tra Londra e Dublino prove tecniche di accordo, Johnson, il presidente irlandese Varadkar, ottimisti dopo l'incontro, ma il tempo naturalmente stringe. Parlavamo ampiamente di Trump e non con belle parole. Allora andiamo al Kiev Gate da Washington. Arrestati negli Stati Uniti d'America i due soci di Rudy Giuliani. Aiutarono il caso di Trump nel convincere l'Ucraina a indagare sul figlio di Biden. Naturalmente ormai è evidente che non si arresta Trump unicamente perché la copertura del presidente, poi tutti gli altri vengono presi, interrogati, arrestati o quant'altro. Colpito l'inner circle. L'ex sindaco potrebbe essere il cerchio magico, direbbe Renzi. L'ex sindaco potrebbe essere sacrificato, ma anche rischiare sarebbero poi anche Pompeo, segretario di Stato, e Company, insomma tutto l'apparato della Casa Bianca, meno che lui che siede nella sala ovale. Sì, questa notizia sull'impeachment di Trump è l'ombra appunto di tutte le sue malefatte con le famose telefonate, il cosiddetto scandalo Kiev-gate è esploso dopo che un informatore ha rivelato che in una telefonata del 25 luglio il presidente USA avrebbe fatto pressioni al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, ex comico asceso alla politica per contrastare le vecchie glorie. E sì, sono stati arrestati due soci, ci dice appunto il corrispondente da New York, Federico Rampini, a pagina 21 della Repubblica, e due collaboratori stretti di Rudolf Giuliani, e poi chissà se toccherà anche a lui. L'ex procuratore antimafia, l'ex sindaco sceriffo di New York è di nuovo nell'occhio del ciclone per il suo ruolo nei vari scandali che circondano la presidenza di Donald Trump. Senza incarichi governativi ufficiali, oggi Giuliani è un avvocato privato di Trump. Questa era la notizia ancora dal mondo, dalla Romania. Allarme corruzione, cade il governo socialista, il PS dopo forti proteste di piazza perde il terzo premier in 3 anni. La notizia di Andrea Tarquini da Berlino. Grave e importante la crisi di governo in Romania. L'esecutivo socialista sovranista contestato da anni in piazza dalla società civile per corruzione, malversazioni e abusi di potere e leggi bavaglio contro i giudici non è sopravvissuto ieri al voto di sfiducia chiesto dalle opposizioni. Ancora notizie, una positiva dall'Iran, le donne allo stadio per la prima volta ora senza velo, in Iran 3500 sono i tifosi sugli spalti dello stadio Azadi, ammesse a seguire la nazionale di calcio, era una partita poco significativa per la qualificazione ai mondiali, un esagerato 14-0 sulla Cambogia, ma è diventato un simbolo di come il paese viene giudicato nel mondo. Le donne ieri sono state fatte entrare soltanto perché la FIFA minacciava di espellere l'Iran dai campionati del mondo. Ancora una notizia dal mondo, viene da Londra. Antonello Guerrera, sempre dalle pagine di Repubblica, i cittadini dell'UE devono registrarsi e c'è tempo fino al 2020, mentre il premier britannico Boris Johnson e quello irlandese Leo Varadkar parlano di progressi positivi per un accordo sulla Brexit entro il 31 ottobre. Il vice ministro dell'interno Brandon Lewis parla a Repubblica in un'intervista sul sito ed esorta tutti i cittadini italiani ed europei residenti nel Regno Unito a iscriversi al Settlement Scheme, ovvero la piattaforma del governo britannico per preservare i diritti dei residenti post-Brexit. Siamo arrivati a 2 milioni di iscrizioni su 3,2 milioni di cittadini dell'Unione Europea aventi diritto. Sono molto soddisfatto, mentre gli italiani in salvo sono solo oltre 200.000 su 350.000 ufficiali. Brandon Lewis, 48 anni, presidente del Partito Conservatore Britannico e ministro senza portafoglio dal 2018 al 2019, attuale vice ministro dell'Interno con deleghe alla sicurezza. Chiudo questa larga scorribanda in pagina internazionale con il Nobel. Secondo tempo del Fatto Quotidiano dice che viene premiata la letteratura europea, si parla del Nobel per la scrittura. Naturalmente dai giornali più attesi il Nobel per la pace, con Greta, non Greta, tutti si domandano. Però per rimanere ai libri, Olga, la vagabonda osteggiata in patria. Parliamo Olga Tokarczuk, un nome polacco quindi difficilmente pronunciabile per noi. che ha una letteratura quanto sembra molto ginibita e imprevedibile. E già di Stoccolma infatti hanno giustificato il Nobel con questa motivazione: per l'immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta il superamento di confini come una forma di vita. E dice: sono così perché sono polacca, perché la Polonia ha una lingua che è altrettanto imprevedibile. L'altro nome, quello che crea più polemiche, Peter Anke, quello che scrisse In tempo da guerra alla Serbia, Giustizia per la Serbia, e quindi fece scalpore e non l'ha preso bene le diplomazie occidentali. Oggi Anke, il filo serbo, così definito da Angelo Muislika Franco, il poeta dell'Austria in Felix. Lui disse al tempo: questo premio è una falsa canonizzazione, andrebbe finalmente abolito. Così se nel 2014, ma ieri ha subito ritrattato, un po' come Bob Dylan, insomma, quando si vince i premi non fanno schifo. I due Nobel, la forza dell'Europa. E allora, dice il Corriere, con Cristina Taglietti, Olga Minuta, viaggiatrice oltre i generi, mentre l'autore Peter Anke, schivo, cultura dello stile. Infatti ha uno stile effettivamente, per chi piace, un po' barocco nel suo eloquio letterario. Ma detto questo, veniamo subito alla pagina italiana, perché ieri brutta notizia per il governo Conte e il contratto giallo-rosso. Il DF passa per soli 3 voti, ma non al Senato, dove sappiamo la maggioranza risicata, alla Camera, dove non dovrebbe esserci problemi, ma tra ribelli, assenti e quant'altro, anche lì ha rischiato. Allora, se tanto mi dà tanto, al Senato sono davvero dei guai. Racconta Massimo Franchi dal Manifesto: sì al DF per soli 3 voti. Gualtieri annuncia digital tax da subito. Camera, il governo rischia di non avere la maggioranza assoluta. Conte: ho chiesto a tutti di avere il coraggio sulla lotta all'evasione. Questo è il quadro che arriva dal Manifesto. Il Fatto Quotidiano invece parla della bozza di Bonafede. Il Fatto Quotidiano si mette in prima pagina delle manette felice, cioè questo proprio a prescindere, giusto o non giusto, lui è felice. Infatti ancora oggi sono delle manette come icona da prima pagina. Manette a chi evade più di 50.000 euro. Il ministro a 5 Stelle lavora soglie di impunità più basse, piene più alte, confische più rapide anche alle aziende. Questo è quello che troviamo dal Fatto Quotidiano, sempre sulle novità governative. Questo era le pene sui evasori salgono fino a 8 anni, così viene raccontato. E poi sul terreno ancora Bonafede, che è un po' la star di quest'oggi del Fatto Quotidiano: blocca prescrizione, il PD comincia a rassegnarsi. Ieri vertici con Bonafede, il guardasigilli non è disposto a cedere sulla norma che scatta a gennaio, però si tratta su intercettazioni e CSM. Percorsi in salita dunque, la prossima settimana un nuovo incontro sui tempi dei processi, racconta il Fatto Quotidiano. Mentre i giornali della destra, naturalmente, diciamo che se ne fregano ampiamente della questione internazionale, perché loro sono stati presi a bombardare il quartier generale di Conte, e quindi Libero così attacca: lo Stato ci uccide con il fisco, ci uccide con il fisco, quando nel frattempo stanno uccidendo con le bombe, anche un po' di cattivo gusto, ma il buon gusto non sta da quelle redazioni. Ma assume 60.000 dipendenti. Ora, a parte il fatto che non sembra che ci siano particolari inasprimenti fiscali, c'è più che altro una manovra povera di contenuti in positivo, ma non c'è una particolare progressione fiscale penalizzante, ma è bello mettere in contrapposizione il fisco con le assunzioni di gente disoccupata. Quindi non tocca, sembra che fuori la difesa, meglio evasori che occupati. Questo sembra essere lo slogan di Libero. La verità invece colpisce il governo tramite Italia Viva: per i PM Babbo Renzi usava per i suoi affari un cellulare intestato ad un extracomunitario. Quindi c'è anche il tema dei migranti, e La Verità riesce a fare tutto e di più. Mentre Il Giornale ha un punto in comune con Il Fatto Quotidiano, solo che vista dall'altra parte: più fisco più manette. Quindi Il Giornale è indignato che si persegua penalmente chi evade le tasse. Cioè, dice: no, è la libertà di evadere, insomma. Più tasse, più multe, più confische per tutti, e vogliono anche il carcere per chi evade. Lo Stato di polizia tributaria, così viene definito dal Giornale. Il Corriere: via il piano cash da 1 miliardo, ecco la digital tax, quelle per i colossi del web. Approvato per soli 3 voti la risoluzione sul documento che ridisegna la manovra della manovra, e soprattutto il rinvio del pareggio di bilancio. Da gennaio arriva la web tax e via libera al piano casa. Questo racconta il Corriere, che poi specifica a pagina 9 di cosa si tratta. Bonus mobilità 1.500 euro, piano casa da 1 miliardo, stretta sulle compensazioni dei crediti di imposta, arrivano i segni incentivi anche per i seggiolini salva bebè. Ma sulla casa, prima di aspettare il piano casa del governo, l'Unione Inquilini, un organismo sindacale che si batte per i senza casa e per i diritti degli inquilini stessi, da Giuliano Santoro: trovato il tesoretto, l'Unione Inquilini ci chiede un piano casa verde. presso Cassa Depositi e Prestiti 980 milioni dei fondi GESCAL inutilizzati per decenni. Quindi che stanno a fare degli attivi per le banche, questo è il concetto. Riqualificare il già costruito e investire nell'efficienza ambientale delle abitazioni, quindi non nuovo costruito ma ricostruire meglio e ristrutturare quello che c'è già. 10-4 minuti primi, continuiamo la rassegna stampa parlando di governo e di partiti. La notizia del DEF passato per pochissimi voti viene ripresa anche da Repubblica, pagina 15, da Lorenzo D'Albergo. 3 soli voti sopra la maggioranza assoluta alla Camera, che era richiesta per l'approvazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, il DEF, con ben 14 deputati dei 5 Stelle assenti, non giustificati, e poi il caos alla Regione Lazio, dove il Movimento voterà una mozione di sfiducia al presidente Nicola Zingaretti assieme alla Lega. E per la verità, assieme alla Lega ha presentato una mozione anche al Parlamento europeo, dove si parlava appunto di Russia Gate e dove è stata sfiduciata la consigliera di Macron. Ancora dalla politica interna, sempre dalle pagine di Repubblica, apprendiamo che l'anno prossimo ci sarà in manovra anche la web tax. Google e company pagheranno dal 2020. Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri al centro della foto insieme ai suoi colleghi europei in Lussemburgo è fiducioso che la manovra italiana passerà senza problemi. E ancora i grillini appunto dicono sì all'assegno familiare e allo stop del tesoro che spacca i dem. Dopo il no al governo, Del Rio rilancia: mettiamo in manovra il fondo unico per la famiglia, facendo confluire là una decina di strumenti diversi. Se non lo fa l'esecutivo, lo farà il Parlamento. Si parla degli eco bonus, della cedolare sugli affitti, le ristrutturazioni, la detrazione dal 50 al 65%. E il piano casa, sempre a proposito di abitazioni, risorse per circa 1 miliardo saranno indirizzate al piano casa proposto dal ministro delle infrastrutture Paola De Micheli. Parte delle risorse saranno destinate a finanziare il fondo a sostegno delle locazioni. Ancora dagli interni, governo e tasse, la stampa fa un po' il punto, che poi è una ripetizione, sarebbe una ripetizione di quello che ha appena detto Alfredo. Vengo invece alla consueta pagina ambientale, perché c'è sempre, credo che dovrebbe esserci anche di più se possibile, perché legandosi al governo c'è stato un gran parlare degli ambienti governativi, che dopo le mobilitazioni dei ragazzi c'era una svolta green in Italia, finalmente il governo si orizzontava verso l'economia circolare. Purtroppo, devo dire, tanto piovò che piove che la montagna ha partorito un topolino, per unire diversi proverbi. Decreto green, il clima può attendere, dice il manifesto. Varato il bonus rottamazione per auto e moto inquinanti, slitta il taglio dei sussidi fossili. E quindi i fossili verranno ancora sussidiati, dice il manifesto. E nonostante che l'Unione Sarda oggi si parla dello scontro sulle rinnovabili con i ragazzi di Fridays for Future, che rilanciano la loro lotta e dicono: l'isola, la Sardegna ha bisogno del metano e non già del carbone. La segretaria nazionale della CISL Furlan: l'Alcoa non va avanti col solare. Quindi ci sono luci e ombre nella famosa economia circolare e green italiana. Ma dal manifesto poi leggo: il decreto Green New Deal c'è, ma il governo ha perso il clima. Il taglio di sussidi dannosi per l'ambiente è stato rinviato alla legge di stabilità, quindi al giorno del mai. Il provvedimento non è esaustivo, c'è tutto un percorso da fare. La nostra idea, dice Sergio Costa, ministro dell'ambiente, è fare un taglio da qui al 2040, ma senza penalizzare nessuno. È difficile fare delle cose radicali senza penalizzare nessuno, in particolare chi fino adesso ha ingrassato su una certa situazione. Nel frattempo, su chi ha ingrassato, le cronache ci portano a Milano: processo record per il rogo dei rifiuti, 8 condannati. Sappiamo che l'eco business è uno dei più grossi, anche per la malavita. Milano, dopo un anno, risarcimenti milionari. Con il protagonista involontario e certamente non contento, Aldo Bosina, 56 anni, amministratore della IPB Italia, condannato a 6 anni e 6 mesi. Mentre sempre della serie attenzione anche al verde, alla vivibilità delle città, dappertutto si vorrebbero che spuntassero stadi e palazzi dello sport come dei funghetti. Allora andiamo a Milano con Gianni Barbacetto e dal Fatto Quotidiano. Ripensare San Siro si può, costa meno, ma i club non va. Il progetto per strutturare i Meazza esiste, Sala lo preferirebbe, ma Inter e Milan conviene il cemento. 58.000 posti a sedere, per abbattere e costruire servono 650 milioni, per restare in 500, ma il nodo è l'area circostante, c'è quella da urbanizzare con appartamenti, insomma varie speculazioni. E se parliamo di ecologia, gli argomenti sono tantissimi. Abbiamo iniziato dando la notizia che l'Arabia Saudita ha spedito un missile a una petroliera iraniana, inquinando terribilmente il Mar Rosso, ma potremmo parlare anche della Turchia e della Rovagia, dove passano oleodotti e gasdotti provenienti dalla Russia per tutte le altre popolazioni, e l'Iran è il quarto stato più fornito di petrolio, e ancora stiamo parlando di combustibili fossili, e andiamo avanti così. E un articolo di fondo che volevo segnalare di Alberto Minganti a pagina 25 della Stampa ci dice che l'innovazione in Italia riduce l'inquinamento. Ieri il Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto clima, uno dei pilastri del cosiddetto Green New Deal. Si tratta di misure per ora abbozzate, finalizzate a ridurre l'impronta ecologica del nostro sistema economico e raggiungere obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo per il 2030. Tali obiettivi sono ambiziosi, è probabile che comportino un non disprezzabile aggravio dei costi del nostro sistema produttivo, ma non sono più negoziabili. Bisogna dunque chiedersi se gli strumenti scelti per perseguirli siano adeguati e si propongono di farlo nel modo meno oneroso. Evidentemente sono ancora un po' troppo diluiti. L'esperienza ci insegna che a ridurre l'inquinamento sono state sin qui soprattutto la crescita economica e l'innovazione tecnologica, e da ulteriori progressi più che da una qualsiasi norma che possiamo aspettarci di quei cambiamenti che renderanno i nostri standard di vita sostenibili anche dal punto di vista del pianeta. Invece si preferisce adottare una logica punitiva nei confronti di determinati consumi, ipotizzando che abbia costo zero per l'economia e per la libertà delle persone a decidere di come vivere. Ma le notizie più significative sull'ambiente e l'ecologia le andiamo a spulciare dalle pagine di Il Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, al quale abbiamo recepito appunto le misure appunto del DEF che sono state appena approvate, e c'è il bonus alla mobilità per gli abitanti dei comuni sotto procedura di infrazione dell'Unione Europea per la qualità dell'aria, un bonus da 1.500 euro per chi rotama entro dicembre del 2021 auto fino alla classe Euro 3, da 500 euro per i motocicli fino agli Euro 2 e quelli a miscela, e Euro 3 a due tempi. Appunto, il bonus potrà essere speso per abbonamenti al trasporto pubblico e biciclette, e i commercianti che allestiranno spazi per la vendita di prodotti sfusi alla spina, alimentari o detergenti potranno accedere a un contributo a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata fino a 5.000 euro, a condizione che il contenitore offerto non sia monouso. Ancora un'altra notizia, sempre dal Sole 24 Ore, le reti elettriche a rischio nel cambiamento climatico. C'è l'autorità italiana per l'energia, è pronta a rilasciare alla deriva con incentivi e penali per le imprese che non rispettano gli standard. Negli Stati Uniti le compagnie green dei sei stati più vulnerabili dovranno comunque impegnare circa 10 miliardi di dollari. In Italia i cinque principali operatori dell'energia investiranno 525 milioni nel periodo 2018-2020 per aumentare la resilienza. Questa era l'ultima notizia dell'ambiente. Bene, aggiungo una perché ci parla della natura con i suoi fenomeni meteorologici sempre più estremi legati al cambiamento climatico. Leggo: e Tokyo si inchina al super tifone. Arriva a Gibis, cancellate due gare del mondiale di rugby, che anche le cose più gravi sono successe. Formula 1, le prove del Gran Premio a rischio rinvio. Più che a rischio rinvio, perché leggo Questa mattina niente qualifiche sabato per il Gran Premio del Giappone a Suzuka, la lotta per della pole viene rinviata domenica mattina per l'arrivo del tifone a Ibiza, appunto. Lo comunicano gli stessi uomini della Formula 1. La gara partirà regolarmente poi alle 14:10 locale, che sono le 7:10 in Italia per chi vuole puntare la sveglia. Quindi c'è questo tifone che là lo chiama un taifu, che sembra una pedina del Mahjong, ma non lo è, perché vuol dire in cinese taifeng, vento che spazza, ma ci dice no, invece è greco, taifu, cioè la tifone, il padre dei venti. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé, che nella notte ti chiama, che pace non ha, sono l'amore che non sente pietà. Sono il vento, se t'accarezzo non devi fidarti di me, io non conosco la legge che guida il mio cuore, sono l'amor, la passione d'amor, qualora sei in me, più forte di me, sono la classico do di petto, fischia il vento e infuria Arturo Testa, questo brano del 56-57, non lo so. Comunque veniamo alla cronaca italiana, dicevamo appunto che l'esempio di Roava, di Kobane, sulle parità anche di diritti per tutti, a partire dalle donne, è un esempio che vale anche per l'Italia. Lo dicevamo perché Adriana Pollice, dal Manifesto questa mattina, ci parla della condizione femminile, l'Italia osservata speciale dell'ONU. Hate speech, violenze di genere, femminicidi, leggi punitive per le donne. Preoccupante questo report della Fondazione Pangea. Dei medici obiettori la pillola del giorno dopo, anche la salute è a rischio. Quindi questo è un tema che il Manifesto ci segnala, noi volentieri lo riprendiamo e lo riamplifichiamo. Poi abbiamo la destra, la Lega. Difendi i migranti minacciato dagli hater, quelli che odiano noi in rete. L'odio online sui social della Lega. Lui è Teodoro Margarita, che fa l'insegnante di lingua in un paesino in provincia di Como e collabora con il Manifesto. Il 20 agosto era a Lampedusa in vacanza. Le telecamere di Local Team l'hanno ripreso mentre discuteva animatamente con un gruppito di leghisti. Il video viene postato allora sulla pagina ufficiale della piattaforma video La Bestia, la macchina da guerra che si alimenta la popolazione social di Matteo Salvini. Lo ha ripescato dopo più di un mese per infuocare il flusso di propaganda anti-immigranti. Mercoledì scorso le immagini vengono postate dalla pagina Facebook dal leader leghista con il commento: canta frittatina di Bella Ciao a Lampedusa per i porti aperti, il signore aggiunge che quelli che seguono questa pagina, ossia voi, sono tutti ignoranti. Questo è la quale. Allora, Bella Ciao, perché leggiamo Forza Nuova alla campagna dell'Emilia, striscione su Bibiano i partigiani. Qui sì, mancano gli immigranti, però insomma ce n'è abbastanza per questi nazisti. Lo sdegno di ANPI, PD e sindacati, grave infamante provocazione neofascista, perché leggo dallo striscione: o partigiano, parlaci di Bibiano. Oh, io non ho l'onore di essere stato partigiano, quindi umilmente vorrei rispondere con la sentenza del Tribunale di Bologna, che su 100 casi di affidi non c'è ombra di sistema a Bibiano, quindi è tutta una canea di destra e macchia del fango. Su 15 casi, ricordavo sempre questa sentenza, contestati, 8 famiglie, genitori non hanno fatto ricorso, hanno accettato la sentenza, e le altre 7 hanno fatto ricorso e l'hanno persa. Quindi questo è quanto. E perciò Forza Nuova non solo è nazista, ma anche, diciamo, fuori tempo massimo. La presidente Cocchi dell'ANPI è bene lasciare fuori i partigiani da queste meschine strumentalizzazioni politiche, e questo mi sembra fin troppo evidente, fin troppo ha ragione, insomma. Sì, ancora notizie di cronaca, le prendiamo una da Repubblica, c'è un'intervista a Elvio Fassone, un giudice della Cassazione, presidente della Corte d'Assise, senatore del PD, dal 1985 presiede a Torino un maxi processo alla mafia catanese con 242 imputati, e nella sua intervista parla appunto di ergastolo ostativo e si domanda se sia giusto oppure no, e ha scritto un libro per Sellerio, Fine Pena Ora, collabora e si scrive con un ergastolano catanese, Salvatore, da oltre 20 anni, e ora si domanda se sia giusto tenerlo al carcere ostativo. E questa è una questione appunto sulle pagine di Repubblica. Sulle pagine del Carlino invece abbiamo un dibattito sull'informazione, c'è il presidente dell'Ordine dei giornalisti Verna, dice: qual è la sfida? I giornali devono garantire autorevolezza e forma più agile. Molto positivo in questa valutazione del presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna, al termine dell'incontro di ieri con il tesoriere Nicola Marini e il sottosegretario all'editoria Andrea Martella. C'è già percezione delle questioni cruciali per il giornalismo italiano e bisogna lavorare per smentire le fake news. Ancora una notizia dalle cronache, ci giunge un dossier di Banca Italia sull''Ndrangheta, il resoconto ce lo fornisce il Sole 24 Ore a pagina 9. Ivan Cimarusti e le infiltrazioni dell''Ndrangheta tra il 1971 e il 2011 hanno generato un calo del lavoro pari al 28%. Le mafie non portano lavoro, al contrario bruciano l'impiego. Le aree geografiche del centro-nord Italia infiltrate dall''Ndrangheta negli ultimi 40 anni hanno perso progressivamente il 28% dell'occupazione. Una sistematica emorragia di impieghi dovuti all'inquinamento dell'economia politica attraverso l'investimento di capitali sporchi in imprese tenute in vita per un solo scopo: emettere fatture false e riciclare denaro sporco. Per la prima volta uno studio di Banca Italia sugli effetti reali dell''Ndrangheta sull'economia reale evidenzia a livello di impresa, entra nel merito dei riflessi a lungo termine che ha la criminalità organizzata nel tessuto produttivo dei vari territori infiltrati, esclusi quelli di provenienza. E quindi diciamo al Premier Conte che se vuole abbattere questa piaga deve lavorare anche contro le mafie. E allora veniamo a una tipica vicenda tutta italiana, la vicenda della cannabis light. Si può? Non si può? Non si va mastrizzando l'occhiolino? Si fa ma non si dice? Questa è la certezza del diritto del nostro paese. Perché dico questo? Perché apro il Corriere di Milano. Cannabis chiuso il 16% dei negozi. Il mercato scosso dalle sentenze. Effettivamente non è facile fare degli operatori economici quando una sentenza, un'interpretazione, oppure una controlegge. Viaggio tra le ultime tendenze e stretta normativa a Milano. E in pieno centro spunta anche uno store per la canapa gourmet, ovvero sia cotte le piatti con ambiziosi stellati. Bisogna essere tutti a base di canapa, ma siccome il negozio è così sulla lama del rasoio, sempre in Italia, no? Spunta la consegna a domicilio della nuova frontiera della cannabis light. Questa è la novità. Marijuana, conubu, conapu, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, hennip, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Marijuana. Hashisha, hashish, hashash, hashichi. E cullati da questo caso quasi canto gregoriano dei fax multilingue sulla marijuana, noi invece ci spostiamo all'ultimo servizio con il quale poi vi salutiamo, che torna ancora una volta alla terra di tutti i film festival, perché domani verrà proiettato Soialism, un documentario di Stefano Liberti ed Enrico Parenti sul sistema industriale di allevamento dei suini e di produzione di soia e dei Stati Uniti e del Brasile, che mettono in crisi la piccola agricoltura locale, la nostra salute e quella del nostro pianeta. Alina D'Ambrosio ha raggiunto i registi, allora sentendo le loro parole noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani, sempre stessa ora, per la prossima rassegna stampa. Buon ascolto. Enrico Parenti e Stefano Liberti, perché un po' di anni fa ci siamo conosciuti perché lui aveva visto un mio documentario sulle basi militari statunitensi nel mondo e io avevo letto il suo libro sul land grabbing, quindi ci siamo avvicinati e abbiamo detto: ah, guarda, è interessante, forse potremmo fare qualcosa sulla sovrappopolazione del mondo e chi creerà questo cibo. Poi questo è, credo fosse il 2012, e per un po' di anni abbiamo scritto alcuni trattamenti e abbiamo cominciato ad affinare l'idea e abbiamo anche cominciato a cercare i fondi e a fare le varie richieste che si fanno in questi casi per i documentari, ma per intanto ancora non riuscivamo a produrlo, quindi abbiamo lavorato un altro documentario su un campo rom e abbiamo fatto un altro lungometraggio insieme, ci siamo anche un po' provati per vedere come lavoravamo insieme e poi niente, nel 2015 abbiamo cominciato a lavorare, siamo andati prima in Cina, poi il Brasile, Stati Uniti, Europa e piano piano l'abbiamo costruito. Nel raccontare l'industria dell'allevamento intensivo emergono bene alcune contraddizioni tra appunto contadini locali, grandi multinazionali che hanno il monopolio e stati-nazione. Nel documentario l'avete fatto vedere molto bene, mi puoi raccontare appunto qualcosa rispetto ai legami che si creano anche a livello transnazionale? Sì, quello che facciamo vedere maggiormente noi è il legame della Cina da quando in qualche modo ha aumentato molto il suo potere d'acquisto e quindi riesce a consumare cibo di lusso, diciamo, se lo si potrebbe chiamare così, la carne, che è il primo cibo che diciamo si comincia a consumare quando si esce dalla povertà. Quindi la Cina ha fatto questa decisione strategica di esternalizzare la produzione della soia in Brasile, dove già dagli anni 80 si sono attrezzati buttando giù le foreste nel Mato Grosso, e così facciamo vedere come gran parte di questa produzione va appunto dal Brasile alla Cina e come anche la Cina stia cercando di, e ci è riuscita a industrializzare sempre di più l'industria del maiale. Per farlo ha comprato delle grosse corporation statunitensi che erano diciamo molto avanti in questa tecnologia di intensificazione del gli allevamenti. Se il consumo di carne fosse sostituito da altri tipi di alimentazione, non c'è il rischio di consumiamo tutte le terre per fare la soia? Dato che si parlava di coltivazione monocultura. Beh, monocultura, no, perché il bilancio comunque è molto minore, cioè tu per produrre un chilo di carne ti servono 7 chili di soia, quindi tu c'hai, se utilizzassimo le terre arabili per la produzione di alimenti vegetali per l'alimentazione umana, ci sarebbe avrebbe molta più terra a disposizione di quanto ce n'è adesso per l'utilizzo degli allevamenti intensivi. Quindi diciamo quella transizione lì è una transizione che per l'ambiente e per l'utilizzo delle terre. E ovviamente è una transizione complicata, perché non è che dal giorno in domani ti puoi dire a tutti non si mangia più la carne o non. Però noi riteniamo che al di là della carne in sé, cioè è proprio il tema dell'allevamento intensivo che deve essere portato al centro del dibattito pubblico, perché quello l'elemento che, come dire, è totalmente disfunzionale, che ti permette sì di produrre tanto in poco spazio, ma a discapito dell'ambiente, della società, del benessere generale e anche degli animali che sono trattati come macchine della carne, che non vedono mai la luce del sole e poi vengono macellati. Nel vedere il disastroso impatto ambientale dell'allevamento intensivo, avete anche incontrato, diciamo, delle piccoli fuochi di speranza, per esempio la vittoria della popolazione del Mozambico per il ritiro del Prosavana. Vi volevo chiedere se avete anche incontrato altri modelli di produzione alternativa che potrebbero essere una crepa in questo modello di produzione. Nell'ultima parte del film facciamo vedere questi allevatori dell'Iowa e anche del North Carolina che cercano di fare le cose in modo diverso, specialmente in Iowa. Il nostro protagonista, lui produce da solo il mais che poi serve ad alimentare i propri maiali che vivono all'aperto, e utilizza le stesse feci che sono uno dei problemi principali dei maiali per poi fertilizzare il terreno, quindi in qualche modo c'è un ciclo. Chiaro che è una carne in questo caso molto più costosa, il doppio di solito o anche il triplo rispetto a quella più economica, però appunto lui stesso, che è dell'Iowa e vive nel più grande stato di produzione di cereali e di maiali, dice non ha senso mangiare tutta questa carne, 100 kg l'anno a persona è semplicemente troppo, dovremmo mangiarne meno, mangiarne meglio, stare più attenti all'ambiente e sicuramente anche alla salute degli animali.